radio. Attenzione, attenzione, canale 10, canale 10, KKK. Attenzione, canale 10, canale 10, copiate Antonio K. Avanti sul canale 10. Attenzione 10, c'è qualcuno? Claudio, sei tu? Avanti? Ma saluto di Fernando, saluto nel ben sentito. Ma dove moduli? È la zona, io lì maletta, latte dolce. Cazzo, allora siamo vicini, dai. Ma mai non hai un grandissimo segnale, cos'hai, una cosa precaria, Cappa. Ti do dei consigli. O prendi un'antenna leggera, tipo come quella che ho io. Cazzo, la sta portando anche Fuzzaro a Sassari. Sta portando la cosa, la Energy 5 ottavi della Midland, o ti prendi la GPA della Siria o la Mate Singosa. Vuoi qualcosa di più forte, ce ne so, c'è la G-Pol, c'è un bel po'. No, ti dico già, se la vuoi mettere in balcone devi mettere la cosa, sa? La boomerang. O la prendi dalla Lembo o la prendi dall'Assirio. Capito? Sono le uniche antenne che funzionano, le altre lasciale perdere. No, quella che ti sto dicendo da tetto, quella che ti sto dicendo. Sono antenne da tetto. L'unica che funziona veramente e ti dà prestazioni, o prendi la Boomerang LM, quella grande però, o la Sirio Boomerang, una delle due, quella che è alta più di 2 metri, quella va bene, le altre lasciale perdere perché non rendono. Sì, quella grande, non prendere la piccola perché non rende. Con la grande riesci a lavorarci bene. E la dovresti comprare fuori, perché qua non ce n'è. Aspetta che mi suona il telefono. Ecco, mi sono rientrato. Ero al telefono, ero. Comunque, guarda, l'unica soluzione è quella, l'alternativa. Se vuoi uscire un po' in grazia di Dio, una boomerang. Perché le altre antenne sono, lasciano il tempo che trovano. Sì. Bene, ti arrivo io lì. 1-2-3, 1-2-3. Antonio, aspetta, mi ascolti, Antonio. 4-5-6. Cappa, mi è entrato anche Gianni. Ebbè, sono... Vabbè, io ho l'antenna sul tetto, ho la 5 ottavi, C'ho la GPS Sirio, che poi è uguale alla Energy. Ma non hai possibilità di metterla sul tetto? Antonio, mi ascolti, cambio. Aspetta, Antonio. È l'unica alternativa. Avanti già. Brecco, brecco, brecco. Aspetta. Avanti già. Cambio. Non sono Gianni, Luca, stazione Fluppi, fine di Via Lentaria, comandi e buonasera a tutti. Oh, capa, scusa, mi sono sbagliato, Lu. Buonasera, lo senti l'amico di Sant'Orsola? Negativo, c'è qualcuno che sta chiamando, ma vediamo un po' se riesco a fare lo squalcialto, Riproviamo un po', avanti a Sant'Orsola o avanti l'altro amico, insomma, vediamo chi si sente. E mi pare che ci sono caduti tutti e due. Scappa, gli stavo consigliando l'antenna, lui. Gli stavo consigliando l'antenna. Gli ho detto che l'alternativa, la migliore per il balcone, è una boomerang. capito? Sì, la boomerang però è la versione lunga, perché fanno una boomerang più corta, caricata, che non dà grandi soddisfazioni, mentre la boomerang, quella alta, quella lunga, della LEM, sembra che dia il massimo. La boomerang è stata la mia prima antenna e ci sono affezionato, io ci ho modulato tanto con la boomerang da ragazzino. Cappa. Sì, è l'unica alternativa, perché se vuoi uscire decentemente, se vuoi uscire da un po' docente, che se vuoi far sentire con tutti gli altri, quella piccola non l'ho mai comprata perché non mi è piaciuta. E se ti dirò che se la boomerang la metti sul palo, sul tetto, e c'hai una buona posizione, come potrebbe essere qua a casa mia, io penso su Sassari che sarei uscito bene come sto uscendo con questa antenna, anche con la boomerang. È un bel forte essere. Sì, guarda anche Carlo come ha migliorato, eppure la posizione dell'antenna è la stessa sul suo terrazzino, però è cambiato dal giorno alla notte. Scappa. Sì, no, Carlo arriva molto più forte adesso, è la sua cosa. E io invece sono in casa, in malattia, sino a venerdì. Ha chiamato Fernando? Cos'è? Caffa, ma c'è qualcun altro giù. Chi è che vuole entrare? Avanti. Non sei così. Io non riesco a sentire nessuno. Come si chiama? Albert? Così. La mia è Alberek. Alberek. Quanto è alta? 6,20. Quanto? 6,20 metri. È quasi una cinquottabile. E i radiali sono da 90 centimetri. Già, ma è una cinquottabile. No, viene venduta come mezza onda. È strano. La mia è una cinquottabile, la mia. E prima parlo di 25 anni fa, avevo la Mantova 1, quella col mollone e i quattro radiali, e quella sì che era seria, bella grossa, bella settida, questa invece è fine fine che sembra un mignolo. La Mantova 1, cazzo, ma che fine ti ha fatto? Non ce l'ha più. Mi sono rimasti solo due radiali. Uno buttato sul tetto e l'altro che l'avevo usato l'avevo usato per altre cose. No, l'antenna non lo so che fine ha fatto. Non si dà ripurata perché non è possibile. No, che la terrazza su è la mia ed è sotto chiave, no, non ha rubato nessuno, magari quando avevo smesso o l'avevo messa a terra o l'ha smontata mio padre e poi piano piano è sparito, non lo so, sinceramente non me lo ricordo neanche. Cappa, strano che non c'era, ma la Mantova 1, che sta la signora Antella, cazzo, a trovarne una, mamma mia. E adesso se le fanno pagare 150 euro per una usata, ma con 150 euro me ne prendo una nuova, non mi prendo una usata. Cosa? Ho detto, ce n'è una al chilometro, ce l'avrà più di 30 anni, è sempre in piedi, ma tocca uno. È vicino all'inizio della Budi. Ti guardo, ti dico che quella lì ci avrà 30 anni. Io sono convinto che se quella li attacchi, gli attacchi l'apparecchio sta andando. Non c'ha nulla. Eh sì, bisognerebbe vedere se ha fatto ruggine sul PL, se non l'hanno isolato, anche se l'avevano chiuso con un calizzante, ma dopo di 30 anni se è entrata umidità e cose gliel'avrà tutto ossidato, però già si può recuperare, sì. Ma non ti credimi, che creduno dopo di anni l'hanno provato e andavano come il primo giorno, non ti credere. E chissà di chi è, non me lo ricordo più, mi ricordo che c'era lì qualcuno. Anche l'antenna mia, un'antenna, cosa? Gli ho detto che mi piacerebbe piaciuta averla. Una Mantova 5, della Sacro Cuore. Sì. E gli ho detto al padrone, mi sarebbe piaciuta averla, io ci ho detto quella lì. magari, ma non ce l'ho prevenuta, ma ho qua 5. E che però è pisante a tazzina, mamma mia. Break. Avanti il break. Buonasera a tutti, doppio. Buonasera già. Ciao Antonio, ciao Luca, non so se ci sia altra gente. Ci stiamo ascoltando al tuppi, ma perché non mi accendeva l'apparecchio, c'era la spina staccata e mi sono assurciato. Praticamente sì, con l'antenna lì poi basta lucidarla e riprende subito a partire, perché io ce l'avevo quasi 20 anni davanti. Poi non ho voluto ripristinare io, se no se volevo la ripulivo. Quella di cosa, quella di Giuseppe, quella lì mi sarebbe piaciuto smontarla, cioè accendere a giù. Ma mi sa che devi chiedere permesso a quello di su. E dipende dalla proprietà. Come l'ha pigliato le due tecole e la butti giù? Lo so, c'è tutto qua, però ce l'avevamo noi, ce l'avevamo prima il tuo Pierpaolo che l'aveva piazzata. Ciappa. Io lo voglio dire a Giuseppe, ma a te una ricca se ne ha la ferma terra in Sant'Enna. Io lo voglio proprio dire. Cioè, sono una persona, cioè, forse una persona abile, che se la bella facciamo buttare a terra. Cioè, me la prendo io se non è molto messa male. Ma non l'ho messa male, se non l'ha sfruttata con l'antenna tu. Quando c'è stato un annetto dopo si è trasferito. E l'ha piazzata anche bene, le avevo messo le staffe e tutto quanto all'interno del tetto, c'era una colonna, si è attaccata con la colonna lì, e l'avevo fatta anche bene come l'ha piazzata. Peccato, perché me l'avevi portata via, poi è stato Giuseppe e me l'avevi portata via. Ci vuole una persona abile, brava, che sappia dove mettere, come buttarla giù. E ci butta giù a terra, oh, ci sale, e meno di metà mattinata hai fatto tutto, ne ha la pizzerra. L'unica cosa è che smontandola può essere ossidata e dura da togliere un palo con l'altro. Io quando l'ho smontato ho dovuto usare il martello, perché c'ha delle cuglie che incastrano, no? E ho dovuto usare il martello e il CRC. Mi ha un po' il CRC, bisogna mettere a girare e poi pam pam pam, come ha fatto Luca un giorno. Mi ha un bel danno in mano uscita, perché era sigillata bene con l'antenna. Ma se no mi sono usciti le cugne. Sì, dopo tanti anni comunque un po' di se non si forma. Comunque sono le antenne che duravano di più quelle lì. Ne mantenevo a 5 e veramente mi avevi anche 30 anni. Che non lo so. Allora c'era, come si chiama, quello di Monte Oro. Adesso non mi viene il nome. Comunque quello ce l'aveva 30 anni. Era senza radiali, stava sempre andando. Ciao. Però boh, secondo me ho già. Era meglio la 1, secondo me. Ma c'è chi dice che l'unica cosa che c'era che dava meno QRM. Però come potenza, come cosa di antenna sono uguali. Si conferma, buonasera. Ciao Claudio. Ciao Claudio. E si conferma. Io ce l'ho una, con la 5 non ha mai cambiato niente. Infatti è solo questione di QRM, qualcuno dice che dà meno QRM la 1 della Mantova 5, che prende meno QRM, però è tutta magari una questione soggettiva. Ehi, poi una volta che ce l'hai, sono uguale, ti raccoglie neanche, pure avute tutte e due, ma la differenza non ce n'è, adesso c'ho la 1 e vuole sempre uguale. Funziona sempre bene. Buonasera a tutti, ben ascoltati, vi abbraccio a tutti, vi incoraggio e va bene così. Per la cronaca sta di nuovo piovendo, la mazza di Berivaria. Allora, adesso mi sono uscito fuori gli sportelloni e sta piovigginando, prova a far culo. E voi, non c'è gambio che c'è tempo. E fra poco per la primavera. Già, primavera no, ma ce la fare, io avevo. settimana fa l'ho comprata la benzina per il riserva, perché uno con la benzina normale di macchina, benzina verde, e l'altro poi c'è con la miscela. E non riesco a passare il riserva, e ci vuole 10 minuti, 4 ore. Non riesco a passare, ho sempre tutto bagnato. E poi l'erba che raccoglie nel cestello mi passa tutto fra un casino nero, capito? Da giù al ballo vieni, capito? E allora zio Antonio, com'è? Bene, bene. Voglio così Antonio, ti voglio sentire sempre così, sempre attivo, sempre bene bene. Tanto guarda, non è che le cose cambiano. La vita è questa, bisogna prendere con filosofia. Anche se non ti viene la disperazione. Guarda Luca, Luca è sempre sereno, tranquillo, non ha problemi. Vero Luca? No, dissento. Dissento perché ieri mi ho passato tutta la giornata al pronto soccorso con la frequenza cardiaca a palla e la pressione bassa. E il motivo sono le incazzature al lavoro che mi hanno causato uno stress e quindi mi hanno messo 3 giorni a riposo assoluto. Quindi tranquillo no, che ogni tanto una via è strangurato qualche d'uno, che lavoro in un ambiente di stravaganti dove la cognizione è bassa, la preparazione idem e c'è molta maleducazione. E io mi incazzo e poi finisce che mi sono caricato di stress. E vabbè, già passa, ma si veglia. Ti do un consiglio, sono più grande di te sicuramente, io sono già in pensione. Però io lo facevo venire agli altri lo stress, capito? Subivo, ma io avevo un incarico molto, molto particolare dove mi stressavo le balle dalle 6 del mattino, perché ero responsabile della conduzione e della depurazione, quindi guarda, non ti dico usuale. Come lavoravo io in 6 ore 40, mi ha stressato, uno stress allucinato, perché tutte le responsabilità erano su di me. Poi piano piano ho imparato a stressare anche io e gli altri, capito? L'ultimo anno, al mio capoai, chiamiamolo caposettore, perché era settore, no? A distretti, mio responsabile di distretto, gli ho fatto venire un semifarto, capito? Perché ogni volta che mi chiamava non rispondevo, mi chiamava, rispondevo, poi ci bacio e rispondevo, dica, ma ti c'era male, no, sono impegnato, guarda, non sono impegnato, non mi ricordo il tre. Gli è venuto lo stress a quest'uomo, cazzo, che quando mi vedeva mi chiameva, e basta. L'ultimo anno me l'ho giocato, Luca, so se l'hai giocato, facevo quello che mi pareva e piaceva, proprio, piazzavo la mattina, andavo in ufficio, prendevo l'ordine di servizio, cosa vuoi fare oggi? Devo andare lì. Chiamavo i ragazzi, dove siete? Sul posto qua, stiamo aspettando l'autosfondo, sto arrivando, aiuto tutti al bar, sto arrivando, aiuto al bar, perché il caffè di uscita nella due autosfondo. Capisco, però io ho sotto di me quasi 50 camionisti e purtroppo il livello è basso, la presunzione di furbizia è alta e tocca stare a litigare col 3x2 in offerta speciale. Lo so, quando c'hai un ambiente di maravigliosi, capito, perché tutti sembra che siano e poi non sono niente, problema, ti capisco perfettamente, però io l'avevo presa così, l'ultimo anno l'avevo presa così, infatti mi ricordo, dice Maria, che chiamava, che ancora oggi lui me lo ricorda, perché quando lo chiamo per me, no, con la fossa settica, che c'è ancora autistiche, praticamente firmavo i buoni io, la responsabilità era mia sul lavoro che facevo. Lo dico, naturalmente Gaia, l'ultimo buio, ti ho fatto una, amico mio, cioè, fa, ma no, raga, non è ce l'avevo con te, ce l'avevo con l'azienda, perché insomma, è così. E diciamo che è andata adesso, buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso anche con chi praticamente era superiore a me, però sempre buonissimi rapporti. Ultimamente la pensione. Un responsabile mi ha evitato, lui personalmente mi ha chiamato per andare al pranzo, sono andato, ho fatto anche un bellissimo regalo, ho regalato un orologio, quindi non c'è problema, però il discorso discorso è quello. Quando al lavoro ci sono i malavitosi e pensano di essere chissà chi, di non sagamare, ci vuoi dire bello. Poi lo che rotta. Vabbè, ne abbiamo passate anche noi, è successo anche a me, Luca, questa cosa qui per lavoro, essere stressato e vedermi la tachicardia a mille, non ne ho più sofferto di tachicardia, grazie a Dio, da quando non sto più lavorando sono tranquillo. La tachicardia mi veniva, ho dovuto prendere anche le pastiglie per calmarla, perché e poi quando mi riposavo mi passava tutto, quando entravo al lavoro mi veniva l'agitazione, perché non mi facevano manco respirare, come arrivavo, oh, c'è da andare lì, c'è da andare là, mamma mia, manco salutava. E io sono 21 anni che faccio questo lavoro, dopo aver fatto tanti altri lavori, e adesso bene o male, classe 69, mi dovrebbero mancare un 7 anni e andare in pensione. Non è parava. Un attimino al telefono. Auguri! E vabbè, già passerà il tempo, tanto poi quando vai in pensione ti annui. Cosa ci vai a fare? Meglio lavorare. Bisogna produrre. E quando vado in pensione già produco calamari, che me ne vado a pescare. Ah, così è. Tanto non ti piace andare a pescare. Qualcosa la dovrò fare, la barca c'è, male che va. Ah sì, quello sì. Vabbè. E comunque, già è così, il lavoro ti porta. Io una volta mi è salita la pressione a 180, mi ero dovuto portare, tra l'altro i miei colleghi non ci credevano, pensavano che lo stessi facendo apposta. Mi sono fatto accompagnare al pronto soccorso e al pronto soccorso, lì alla Guardia Medica, e mi hanno messo la pastiglia sotto la lingua, ma è sofferto di pressione, dall'agitazione. Lo fa. Io invece ieri, sempre seduto sulla scrivania, quindi non è che stessi facendo un lavoro fisico che ti porta a far salire i battiti, seduto, mi sentivo molle, strano, e mi ho misurato la pressione, mi dava 135 battiti al minuto, come che stessi pedalando in palestra, cosa che invece ero in massimo rilassatezza, e la pressione è bassa, per cui hanno preso i miei colleghi, arriva io prima che ci caschi. E ti hanno portato da Porto? No, direttamente a Sassari, perché uno ha guidato la mia macchina e l'altro è venuto con un'altra vettura, così mi parcheggiavano la macchina sotto casa. E niente, anche perché sono entrato alle 11 e sono uscito alle 6 di sera. Sì, ma pronto soccorso è così. Io una volta ho fatto due turni a pronto soccorso, ho visto due cambi di infermieri, non ti dico altro. Io sono andato bene perché ero un codice azzurro, chi arriva col codice verde ci sta ore e ore. Io sono stato molto in trattamento perché mi hanno fatto due flebo, mi hanno fatto tutta una serie di analisi per il cuore, per cui meno male tutto a posto, però mi hanno fatto l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, prelievi del sangue con tutti i valori, e me ne hanno fatto cose, e poi mi hanno fatto le flebo, che quelle scende piano piano e ti fa passare le ore, me ne hanno fatto due. E quindi un'ora almeno di flebo te l'hanno fatta, mezz'ora l'uno. Eh sì, una di soluzione salina e poi un'altra con la becca bloccante, che serve proprio per far scendere i battiti. Vabbè. Ti hanno fatto pagare a tutto il soccorso? Negativo. Ecco, per me riprendono la macchina. Beh, cioè che si paga. Per certi tipi di cosa si paga? Vabbè, comunque, l'interessante è che sia andato tutto bene da voi, ma si perché lì anche se ti avessero fatto pagare. Avanti, altro. Bianco che riprendono la macchina. Sì, non bisogna agitarsi, bisogna prenderla un po' con calma la vita, perché anche io ero sempre di corsa, sempre frenetico, sempre correndo da una base all'altra, io c'avevo un bel di negozi da seguire, capito? Quindi siamo sempre a detto ora, vai un negozio, vai nell'altro, parte a stintino e vai a cosa, ce l'abbiamo anche, come si chiama, Santa Teresa, eccetera, quindi siamo sempre andati a Durrei. Sì, bisogna darsi una calmata, tanto sto capendo che a fine dell'anno non ce l'ho in testa nel pezzo, rimaniamo sempre dei dipendenti e quindi è inutile prendersela a cuore, bisogna fare i dipendenti. E intanto un premio non te li dati, lascia perdere. Io ti sto dicendo, ho lavorato 39 anni lì a Porto Torres e più ho lavorato anche a Sassa in una ditta di autotrasporti, quindi i miei anni ce li ho quasi, quando compio 67 anni poi vado in pensione se Dio vuole. Con la legge attuale bisogna fare la somma dell'età con la somma dei contributi ed arrivare a 102. Io con i contributi che ho e con l'età che ho, considerando che ogni anno si matura un anno di età e un anno di contributi, mi dovrebbero mancare 7 anni. Che è buia! Lo so, ogni tanto una giacchemma è già passa. Ma è bello lavorare in armonia, ci sono dei posti dove lavori in armonia, tranquillo. Allora a me mi hanno sempre messo la fretta lavorando, mi telefonavo da una parte all'altra, e qua, e là, il principale, dove sei, qua, là, buh, sempre in corrente. E andavo per dire qualche posto e vedevo questa calma, sai quanto mi dava fastidio, se la prendevano un becco con calma, sì, un attimino, arriviamo. Aspettando, capito? È il casino, cioè quando tu sei abituato a correre, poi quando vedi la gente che si abbiglia con calma ti dà fastidio, capito? Però è giusto che sia così, uno deve fare le cose tranquillamente, perché sennò poi alla fine vedi un fisico di domanda di Ubuntu, un amico mio che bussava, una buona anima. Dice, ma hai piano, se no da cui il fisico ti domanda un conto. Sì, lo sto imparando piano piano. E questa frase, ogni volta che ho un dolore, una cosa, me la ricordo sempre, capito? Ma infatti bisogna cambiare il registro, perché tante volte mi incazzo io e non si incazza il titolare, e allora che mi ruba di va, non è roba mia. Appunto, basta che tu lo dici a lui, dici guarda così e così, e lui si arrangia, se la bisogna non incazzandola non tu. Bisogna mettersi l'impegno a farlo. Esatto, vabbè, ti prenderanno in odio gli autisti, però a un certo punto se non si comportano, se non fanno come si deve, è giusto che sia così. Il problema è fondamentalmente è quello che tu devi controllare gli orari degli autisti e tutte le soste che si fanno in itinere, perché il contratto non prevede di essere pagati quando sono al bar, per intenderci, o quando fanno la pausa pranzo, o quando fanno la pausa di guida, anche se obbligatoria, non è pagata proprio perché si chiama pausa. E loro invece nei rapportini scrivono sempre orario continuato, perché sono pagati a ore. Questo mi dà fastidio, perché stai cercando di fottere, di fregare i soldi dal portafoglio di mamma, come dico io. Se ti fermi per qualunque esigenza, se ti fai la pausa di mezz'ora, segnala, non l'hai lavorata, segnala, perché io sono qua per controllarla. Poi è inutile che tu mi dici che ti ho tolto le ore, ti ho tolto quello che non hai fatto. Ma cazzo, e allora lì discussioni, parole pesanti, che tante volte si rischia di uscire in piazzale e risolverle in un'altra maniera. Ci sarà molta ignoranza. Ho ripreso dalla macchina. Ehi, tu, dove stai andando di bello? Fare un giro. Ha fatto un giro. Ma Gabriele? No, chi è Gabriele? Con te e tu. Ho capito. Come mai hai preso la macchina? Non stavi bene a casa? Vabbè, che Gabriele ti fa dici di capo e chi? No, sono fissato. Kappa, vai. Vai per Luca, va. Kappa Luca, già stavo seguendo il discorso. Brutta grandi è quella. E anche perché col mio carattere finisce sempre che non gliene faccio passare neanche una. E se tante volte puoi chiudere un occhio con qualcuno perché è più in gamba degli altri, ci sono certi che ripetutamente pensano di fare i furbi e ripetutamente arrivi allo scontro. Sì, ma poi che cosa magari? Pigliarsi la birra a rubare, così è. Ma birra no, perché con le merci pericolose la tolleranza è zero, quindi non ce la possono permettere la birra, sennò si cucreggiano i vinzaedde. Però no, si fermano perché si fermano, no, perché passando vedono colleghi già fermi, allora si fermano anche loro, lì partono le chiacchierate, belle, bellissime, le abbiamo fatte tutti. Io prima facevo un altro lavoro e quando vedevo i colleghi su strada ci si fermava, e non è quello il problema, è che se non le fai, perché aspetti che ti sgami io? Tanto c'è i satellitari montati sul camion, quindi io lo vedo tutte le volte che si fermano, c'è il cronotachigrafo che ti dà tutte le volte che sei fermo, perché ti dà la velocità zero e i tempi, per cui se vedo che sei fermo 20 minuti so anche dove sei fermo da satellitare, e quindi perché anche farmi lavorare il doppio a controllarti? E segna il giusto, tanto poi te lo sgamo, uno per uno vengono controllati tutti i giorni, e non è cosa. E quindi perché aspetti che ti colga io in fallo? Tanto segnalo e non rompere le balle, lavoro meglio io, tanto di ne rumo guruma a te, si capito? E invece lì polemiche, parole di troppo, e tante volte si è usciti anche nel piazzale per chiarirle, capito? Si arriva anche alle mani secondo te, a chi tu non sei nessuno, bomba per altre cose da voi, ma si arriva anche alle mani. Da noi spesso si è arrivato quasi alle mani a fare questi giochi, dove lavoriamo noi. Vabbè, in tutti i posti di lavoro ci sono anche i colleghi, basta, non solo sono i principali e cose, sono i colleghi tante volte che sono bastardi e ci fanno la forca, fanno la cascetta, poi almeno faccio solo la cascetta bene, ci aggiungono sempre il ricavo. Ma noi sono arrivi già di male, proprio questa cazzata, che ti ripiace a Carumara a pensare la birra, che tu sei incazzato perché era in ritardo del lavoro e tutto, e da lì sono con altre parole, poi ti sono passato io quando ho visto la valuta perché stavo guidando io, capito? Ma io glielo ho anche detto, glielo ho detto, guarda che no, cioè, non va bene questo che state facendo, io l'ho detto alla vista, gli ho detto pure c'è un carattere di merda, cioè quando mi incazzo, mi casco, ma poi come ti cazzo voi, proprio proprio per tutti, sai cosa che poi stavano picchiando i cose, capannone, e la vita stava rischiando tutti, cioè a me non mi devi dire niente, io glielo ho detto di non farlo, potevo farlo, dovevo lasciare lì, prendere la macchina e andarmene. Gli ho detto così, gli ho detto, la prossima volta piglio una macchina millando. Ma quando si lavora si lavora. Io sono stato sempre serio nel lavorante, non mi fermavo un attimo. Guarda, solo quando entravo in negozio, magari entravo in bagno, se devo fare una pisciata me la facevo, ma fermarmi per cose tipo andare al bar o cose del genere, non ne ho mai fatto io. E molte volte mi serviva la medicina, ma anche farmacia andavo, niente, proprio nulla. Quando stai lavorando, non è che stai giocando. Il mio lavoro qui era una cosa dopo l'altra, non è che ci avevi una tregua, niente, proprio, cioè, sempre di continuo. Le ore le facevi proprio in pieno, poi molte volte dopo che avevi finito di lavorare ti diceva, resta che devi andare... Cioè, allora di tornare a mangiare, capito? Lo so già. Purtroppo per colpa di qualcuno mi si impara a rimare, gatto, mare, che ti curi, e ma qua lasciamo perdere qua. Io ho detto, guarda, io non te la faccio più, sai. Forse, come ho visto una calmata amministrativamente, che a me non me la punti in un lavoro. Se voglio io il lavoro, ce l'ho. Vabbè, ma il lavoro cerca sempre di interesse, adesso non è un momento che puoi mollare così. Facciamo di un ingoiato i ruspi proprio per non perdere lavoro, io li ho ingoiato di quei ruspi, pregante. In tanti anni ce ne sono state di cose che mi hanno fatto venire la voglia di dire andate tutti in quel paese, eppure siccome avevo famiglia non me ne sono andato. Ma sono due casi diversi sono. Cosa vuol dire due casi diversi? Io ho avuto anche liti e cose al lavoro, anche col principale. Ti ricordo che io sono cercato solo, perché i tecnici non me ne trovano. A me se mi rompe le palle, cioè, me ne vado dall'altra parte a lavorare. E l'ho dimostrato tante volte. Ma tu non sei un tecnico, non hai fatto manco corsi, scusa, tu, che tecnico sei? Ah, che ti l'ha detto a te che io non ho fatto il corso? Cosa ne fai tu? Tu me l'hai detto che ti dovevi aggiornare. Io ho lavorato molto più serio. Cioè, di quel lavoro, c'è che sono contento, mentre lo posso vedere sono contento. Vabbè, avanti. L'hanno fatto internamente il corso, capito? Eh, ma che l'hai già portato lei? No, no, ancora no. No, lo porto dopo. È tranquillo. Che è proprio oggi, no? Vabbè, avanti Luca. E nel frattempo io sto guardando su internet a vedere cosa c'è di interessante. Scappa, già, io d'inverno ho fatto dei corsi, ho fatto dentro la ditta, il capannone, per vedere come si usavano le strumentazioni e tutto, e anche loro me l'hanno fatto, internamente perché lo possono fare, capito? Cioè, me l'hanno fatto vedere, devo fare solo il corso di pubblico, devo fare, che ancora non l'ho fatto, capito? Ma io, cioè, me l'hanno fatto internamente perché loro lo possono fare, capito? Hai un attestato di questi corsi che fa? C'è una qualifica, cioè, nel corso, c'è anche l'attestato di cose, aspetta, c'è un attestato di sicurezza, una roba del genere, quel corso lì l'ho fatto, quello però l'ho fatto esternamente, poi devo fare altre cose, devo fare. Io nel corso che ho fatto ce l'ho attestato, HACCP, corso d'incendio, corso pronto soccorso, il corso di comportamento col cliente, eccetera, eccetera, ci davano attestati, facevamo i corsi di due giorni, poi c'era dove fare il compito, in base a quello ti davano attestato o non te lo davano se non sapevi le cose. Chiappa, sì, però mi hanno fatto fare anche, abbiamo fatto delle cose in capannone, tramite loro, tramite la ditta, perché sono stati montati con l'auto, non è che sono voluti per tutto, io ho studiato, sono piatto dalla testa, perché mi hanno fatto dei corsi d'inverno. L'unica cosa che non ho fatto il pulling, l'ho fatto da pulling, che lo dovrò fare, a breve. Vabbè, io pensavo che lo avessi fatto. Da quello che mi hai detto tu, ti mi hai detto, devo fare i corsi, mi voglio aggiornare e cose, quindi io pensavo che tu li dovessi fare ancora. Devo fare solo il corso di pulling, sono di Butangari, capo, dove sei tu adesso? A di Butangari. Buttangari, dove li buttangari? Diciamo, comune di giorno. Ah, quella zona stiamo andando. No, ma come mi senti bene? Santiago 7, radio 4, là. Sempre bene mi arrivi di lontano. Adesso sei 9. Si sente come la storia. E c'è questo mio, ogni tanto si sposta la lancetta, va a 4, 5, 9, 7. Io non lo sento più. La radio si sta abbassando. Mi senti ora? Adesso sì. Perché c'è un microfono alzato, la bagatta si leva. Ma non quella qua. Se la però l'ha fatta la macchina, si sta cagando, a te. Ma in loro mala. E a me succede lo stesso, quando la lavo il giorno dopo piove. Ma io sono arrivato a situazione, magari prenderò troppo là. Capaga. Ok, andare. Adesso sono proprio sotto, come mi senti di segnale? Santiago 9-5. Buono, non so se arrivo in via d'Italia, alle Cucangari. Ma sei attaccato? Sì, ah. Come attaccare a vedere quanto arrivi? Non viene male. Ah, ok, va bene, non c'è problema allora. Antonio da Via d'Italia, Santiago 9, però la radio è bassa, molto bassa. Vabbè, guarda a vedere, perché abbiamo il microfono staccato, cioè il microfono staccato dalla bocca. Io lo sento benissimo di radio adesso, però la tua è diversa. Ah, ma dai, sono arrivato, dai, ce la risentiamo. Ehi, ciao. Azzurri, ciao, avanti Luca. Ma sotto si sentono gente di fuori, lo sentite anche voi? Mi sono Mazzetti, americani sono il canale 11, Luca, il canale 11, americani sono. Adesso passo al canale 11 e ti rigribo, a loro e a Trump. Cosa sono, AM o FM? Sì, AM, FM, ma c'hanno delle potenze allucinanti. E dice, ma oltre 1000 watt. Beh, io no. Va giù in cortile, avrà con chissà. Cappa, vabbè. Gli americani si sanno che era sempre la maglia di grandezza. Spatto dal capo, ma figurati il baracchino. Se vedo su internet ci sono certi apparecchi qua, americani, con lineare sotto, distorsore, tutto, proprio ultra apparecchi che qua non si sono mai visti. Già, le migliori radio vintage sono americane, che niente va a fare, è così, purtroppo, è così, però loro quando trasmettono cattucciano potenze allucinanti. Ho visto il DAC in una stazione che hanno messo in fotografia, c'era il DAC, e tu vedi il DAC, e di non rimane. Non hai visto quanto costava? No, non è che ti ha messo una foto per vedere la stazione, capito? E c'era anche il DAC, il Garage, però che non era Garage, che era presidente, mi pare, marchiato un presidente, ma come Garage. L'ultimo che ho visto io, infatti stavamo guardando con Roberto, guardato, $550 il DAC, uguale al mio. Uguale, preciso identico, €550, ammazza nelle varie. Sono parecchi misti, dai, è bello da vedere, sembra un linealone di quelli grossi. È bello da vedere come apparecchio. Quando io l'ho visto da Walter non ci credevo che era un apparecchio. Ah, ma devo dire un microfono attaccato, c'aveva il Super Sideric. Con DAC e sembrava una radio radioamatoriale. Quando io stavo andando in macchina lo sentivo come se fosse una radio vostra, dai, di radioamatori. Ma c'aveva questa voce calda, bella. Sì, quante volte ho durato con DAC io la carbonazione invece di macabizzanti. Sempre con il Tana più 3, anche io c'avevo Super Sideric. Adesso c'è lo stanno più 3 normale, però è una bella radio, poi c'è una bellissima ricezione, bella. E io ce l'ho Roberto, ce l'ho questo di Roberto perché non c'avevo questo qua, c'avevo giù un mare di radio, mamma mia, là. Non so cosa fare questo radio, mi si sciogliato, vado giù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 base. 11 base e 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 veicolari e tutti i microfoni, tranne più 2, tranne più 3, MB più 4, MB più 5, Super Sideric, no, Super Sideric non c'è, non è Super Sideric, quest'anno più 3, 2 Adonis, 500 quel periodo che te ne volevi sbarazzare, le volevi vendere, eccetera. E ma tu ti rimetti, solo che quando sono troppi, a me, vabbè, ne ho due di base, ho due base e due apparecchi piccolari, dai. Ma sono tutte buone come, sono tutti buoni come apparecchi, anche quello che uso in macchina è molto performante. Già, questi sono tutti funzionanti, sono anche il Royce, il modello diverso dal tuo, ne ho tantissimi. La Fayette valvolare, quelli che si usavano prima, il Constat 25-35B, c'è lo standard, ne ho un mare, e poi i due pupilli sono il Galaxy, questo che ti ho fatto vedere, e il Washington base, che è grande quanto il Galaxy, bellissimo, nuovo, anche quello perfettamente funzionante, ne ho tante, io mi piaceva comprarle, ti ricordi con la carbonazzi, vabbè, era più grande di qua, la stanza, però c'avevo la U, qua ho dovuto fare solo la L, perché se no non ci stavo io dentro, capito? Vabbè, comunque me la tengo, quando sarà, perché uno si lavora a pigliare, adesso comunque, vai Luca. Sì, ma più segnali su sì. È già una bella cosa, Io ho tre CB veicolari, piccoli, uno è l'Alan 68, l'altro è l'Alan 78 Multi Plus, che so che si può anche espandere come canali, e poi c'ho un President Bill, piccolino, da mettere in macchina, che non ha neanche lo smitter, c'ha solo i canali. No, io voi se ho quello a tre strumenti, Claudio, non so quali c'hai tu. Poi ho avuto anche il Telsat che ho venduto, me l'ha regalato Marco Scorpio, e praticamente me l'ho venduto. E poi ne ho avuto a calendari. C'era quel periodo che li butta giù su due, io compro meno scambio, che se ti gufa è io. No, questo Royce non c'è nessuno, questo vabbè sì, è legno, sono in legno color noce, ma è un modello molto particolare, è un po' più piccolo di quello che c'hai tu, un po' più piccolo, però è molto bello, c'è l'altoparlante davanti, tutto cromato, è molto bello anche questo funzionante, lo stesso. Anche questo è funzionante, ma non lo uso mai, non li uso. L'unico che ho usato un pochino è il Galaxy, perché è troppo bello, sembra un drone davanti, cazzo sembra una HF. Poi non c'è commutazione dei canali, quindi c'è la frequenza, tutto il rosso, c'è uno smicchio enorme a tre scale, ti segna come una radio amatoriale, ti segna la parte delle stazionarie, sopra i watt e lo smitter sì, a 9,60, proprio grande come quello del Galaxy Atomico, forse anche più grande, ma è bellissimo, mentre mi piace molto il presente, perché c'ha le smitter rotondi come il Magnum, capito? Bellissimi. Ho avuto anche io il presente, quello lì da base. L'ho avuto anche io, poi ha girato, l'hanno avuto tre o quattro persone, quello lì, l'ha avuto anche Giulio, il mio, poi Bobo ce l'ha avuto, insomma ha girato un bel, dopo che ce l'ha avuto io che l'avevo preso da fuori, comprato fuori, e vabbè, ci siamo fatti una cultura tra... Mamma mia, che sta a raccontare di che è il figlio, per carità. Una vita, io ho 66 anni come Gianni, ma ho iniziato nel 74, su Maria Guerra, in un palazzo è uscito, per carità di Dio, e vabbè, la passione è quella, io nonostante sono un allenatore, mi sono sentato un po' finire qua a casa, a fare i lavori, eccetera, eccetera. Poi una volta che le cose si sono messe a posto, ho rimesso anche l'antenna 27, ma io vi ascoltavo sempre con l'antenna della 5 bande, vi ascoltavo sempre, anche con il dipolo, vi ascoltavo sempre. Poi alla fine mi sono attratto a letto, ma dici che montiamo l'antenna così. Già che ce le facciamo, più gente c'è meglio, e comunque già in questo periodo non ci possiamo lamentare, la gente è già 30 anni. Sì, solo che ci siamo troppo poco, dalle 6 e mezza sino alle 8 per un quarto e poi lo che viene su. Invece sarebbe bello come era prima, che ti trattenevi la notte, anche io mi buio i gufi, ma lo fammi tendi, non parlavo, però ascoltavo. Era bello anche ascoltare le gare che facevano casa coso, come si chiama, ma Vittorio Giove, tutti quelli lì, Marco e tutta quella gente lì che chiamavano Badesi, Urbia, facevano le gare con gli Aroni, allucinanti. Io metto il mazzo e facevo anche io ho fatto il Vittorio, Torre di Buzzi che voleva più forte, la gioco di Bado di Valvole, Santa Maria Madre Nostra, bei tempi. Adesso bisogna stare attenti alla corrente, no, io faccio qua davanti l'amplificatore, quello la foto enorme, grande, tiene 911, prima 922, c'è due valvole grosse lo stesso, ma non... Le ho tolte le valvole conservate, uso quello allo stato solido, trasessorizzato, consumo meno, io meno resa sicuramente, però mi consumo meno, che finisce Sant'Antonio mio, ogni barriera di Rusi, arrivi via, vai Luca. E io mi ricordo 25-30 anni fa che si facevano le gare anche a chi arrivava meglio, a quella guardia giurata che lavorava a Montedoglia, e tutti facevano, chiedevano segnale a lui, e poi c'era la mania di dire a ti basso, di sovramodulare dicendo a ti basso, e poi chiedere a lui chi sentiva. Non era guardia giurata, era un militare dell'aviazione. Sì, era Domenico Cristal. Ecco, Domenico, io da Carbonazzi, a me in quel periodo mi avevano messo a torre di controllo. Io con Domenico la mattina presto prima di lavorare parlavamo con la zona di Villa Ciro, ma tante volte è capitato, eravamo su 10 anche quando ero in questione normale così, e mi salutava Ivan da Coso, da vicino lì alla zona di Orizzano. Infatti bloccavo il questione un attimino, lo salutavo, però mi diceva sempre sento solo a te, e salutavi tutti, o salutavo tutti e via. Era Donato, però io non c'era per nessuno. Ma qua se io dovessi tirare su il palo e metterlo sul tetto, sono ancora più alto di Carbonazzi. Perché Carbonazzi era 2,98, non ci arrivava a 300, qua sono a 350 metri alle volte del mare. No, io mi ricordo che parlavi con questa qua di Furi, sì, ma lo ricordo anche io. Io lo sentivo bisbigliare, ma non capivo cosa diceva. Ti ricordi, eravamo noi che accompagnavamo a Domenico Tardanetto Olbia? Ehi. Tardanetto mi ha detto che al porto di Olbia una volta sentiva solo a me, tutto questo non lo sentiva solo a me. Vabbè, era d'estate, c'era propagazione, però se tu vai ad Olbia ci sono tante colline, montagne e cose, è difficile arrivare a Olbia. Io credo difficile, ma stai scherzando. Io qua Olbia lo sento in VHF, ma non riesco ad esempio a passare, però lo sento, perché le antenne sono basse, devo mettere sul tetto, ma non me ne frega niente, lascio così, anche perché esteticamente si vedono troppo, sono brutte, hai capito? C'è nel giardino, si notano, ma non sono così aperte. Ciao, va bene, due chiacchiere me le faccio, mi sentono tutti, Porto Torre, Salghero, Sassari, Salvio e Luci, ma dove c'è una HF c'è un'apertura micidiale.